che poi mi piace anche quando non parli e canti sottovoce quei tuoi ritornelli mentre tra le dita rinchiudi i capelli. Comunque con te, comunque con te, quando mi dici mi vedo sbagliata e invece sei come io ti ho disegnata, tu che rimani anche appena sei andata. Comunque con te, comunque con te, mi piacerebbe portarti in collina, vedere il mondo come si declina, portarti più in alto, più su delle nuvole, tu che profumi di sogni e di fragole. Se riniziasse un'altra vita, non chiederei che fosse infinita. Mi basterebbe sapere che esisti, che è lo stesso il profumo che indossi. E se non mi conoscessi farei come ho fatto, dirti che ti aspetto in un posto perfetto. Che poi io di perfetto non ho proprio niente, divento perfetto se ti ho tra la gente. Comunque con te, comunque vada con te. Comunque vada con te. Comunque vada con te. Comunque vada con te. Sono pesante, lo dico a me stesso, troppo romantico e prima poi casco. Ma me ne sbatto di tutta sta gente che non dà peso alle cose importanti. Che poi l'amore se in fondo ci pensi è l'unico appiglio in un mondo di mostri. E tu lo descrivi in un modo pazzesco, tu lo rinchiudi in un solo tuo gesto. Mi piacerebbe lanciarti nel cielo, vedere il tuo corpo che pian piano sale, collocarti nel posto più giusto, la stella più fragile dell'universo. E se riniziasse un'altra vita, io non chiederei che fosse infinita. Mi basterebbe sapere che esisti, che è lo stesso il profumo che lasci. E se non mi conoscessi farei come ho fatto, dirti che ti aspetto in un posto perfetto. Che poi io di perfetto non ho proprio niente, divento perfetto se ti ho tra la gente. Comunque con te, comunque vada con te. Comunque vada con te. Comunque vada con te. Comunque vada con te. Comunque con te.